sui cantieri della TAV, denuncia Saviano. Palermo confermata la vittoria di Ferrandelli, Borsellino placa le polemiche, niente dubbi. Vola la cassa integrazione a più 49,1% e il prodotto interno è in calo dello 0,3%. Buongiorno dalla redazione, da Adriana Fracchi. Il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano è a Torino al convegno organizzato dal CSM. Il centro della città è blindato, nessuno può avvicinarsi a Piazza Castello. I manifestanti no TAV sono tenuti a distanza. Per tutti gli aggiornamenti ci colleghiamo subito con Torino, con Andrea Viali. Buongiorno. Sì, buongiorno. A Torino da questa mattina c'è il timore di contestazioni da parte dei no TAV nei confronti del capo dello Stato dopo la sua presa di posizione ieri a favore dell'alta velocità, contestazioni che al momento comunque non ci sono state. Anzi, al suo arrivo al convegno del CSM, Napolitano è stato accolto da un gruppo di studenti che ha cantato per lui l'inno di Mameli. I no TAV starebbero invece preparando un gesto di protesta simbolico da mettere in atto all'aeroporto di Caselle quando il Presidente della Repubblica lascerà la città, lascerà Torino. Basta violenze, serve lo sviluppo, l'alta velocità ci terrà ancorati all'Europa, aveva detto ieri in una nota Napolitano, che ha anche deciso di non vedere i sindaci contrari alla TAV che gli avevano chiesto un incontro per oggi. Disponibile ad incontrarli, si è detto invece questa mattina il governatore del Piemonte, Cota, ha annunciato che presto convocherà tutti i primi cittadini della Valsusa, quindi non soltanto quelli contrari alla TAV. Sentiamo Cota, poi la linea può tornare allo studio. Sono già state fatte tutte le mediazioni possibili, il tracciato è stato modificato tenendo conto di tutte le richieste del territorio e di tutte le preoccupazioni del territorio. Adesso si tratta di gestire questa situazione, bisogna parlare con tutti, bisogna costruire un progetto Val di Susa, ovviamente tenendo fermo il fatto che l'opera non solo va realizzata ma vanno rispettati assolutamente tutti i tempi. Grazie ad Andrea Viali. La TAV è necessaria, utile e strategica, così il ministro dello sviluppo economico Passera, intervistato dalla stampa, sottolinea come ciò renda ancora più inaccettabili alcune manifestazioni di illegalità e di violenza. Le mani della criminalità organizzata sui cantieri della TAV. L'allarme arriva da Roberto Saviano, che ricorda come il Piemonte rappresenti la terza regione in Italia dopo Calabria e Lombardia per penetrazione dell'andrangheta. Fra i primi a denunciare l'infiltrazione della mafia nel tessuto economico del nord ci fu Giuseppe Ayala, ex magistrato del pool antimafia di Palermo. Lo ha intervistato Maria Luisa Pezzali, sentiamolo. Le prime volte che l'ho detto, non ero soltanto io a dirlo, ne parlava anche Giovanni Falcone, eravamo a oltre 20 anni fa. Questa nostra analisi non è stata mai ascoltata seriamente come avrebbe dovuto, i risultati oggi sono sotto gli occhi di tutti. Insomma, quando vengono sciolti per infiltrazione mafiosa comuni tipo Bardonecchia o Desio, mi vengono in mente questi, ma ce ne sono altri, vuol dire che non è soltanto una presenza inquinante nell'economia del nord, non di tutto il nord, sia chiaro, non generalizziamo, ma è di più. È ormai un inserimento che riguarda anche la vita amministrativa e politica. Lei ha avuto modo di dire che la mafia al nord non ha usato il tritolo, ha bussato alla porta e qualcuno l'ha fatta entrare. E credo che sia sotto gli occhi di tutti. Ed è chiaro che il canale d'ingresso soprattutto è stato quello economico, cioè alcune imprese mafiose si sono affacciate su quel mercato, specialmente nell'edilizia, da quello che almeno risulta alle indagini, e hanno trovato le porte aperte. Ad alcuni imprenditori del nord ha fatto comodo avere a che fare con queste imprese, fondamentalmente perché dotate di capitali freschi in abbondanza. E probabilmente anche erano imprese che assicuravano tutto il nero che si voleva, e il nero è un colore che in certi ambienti economici piace molto in Italia. Io credo che se c'è una vera volontà, che politica ma anche burocratica, amministrativa, di mantenere puliti gli appalti pubblici, le possibilità ci sono. Per quanto riguarda nello specifico la TAV, non c'è dubbio che lì i riflettori non sono accesi, di più dovrebbero fare tanta di quella luce che, insomma, mi piace pensare che un'impresa mafiosa non riuscirà ad aggiudicarsi qualche appalto che riguardi la TAV. Mi piace pensarlo, incrocio le dita però. Eccoci, ora un flash d'agenzia che riguarda Boni della Lega, presidente del Consiglio Lombardo, che sarebbe indagato. Vi daremo ulteriori aggiornamenti nel corso del notiziario. Fabrizio Ferrandelli vince le primarie del centro-sinistra di Palermo per uno scarto di 196 voti con Rita Borsellino, e quanto emerge dal riconteggio delle schede terminato soltanto all'alba di oggi nella sede del PD regionale di Palermo. Al microfono di Radio 24, Rita Borsellino. Quando la domenica sera si chiusero i seggi, non erano ultimate le operazioni di scrutinio, non erano state ultimate perché c'erano state delle contestazioni, si era creato un clima piuttosto complesso, era già molto tardi e quindi fu tutto sigillato e portato nella sede del Partito Democratico. La fine delle operazioni di conteggio si è avuta soltanto stamattina verso le 7, perché da ieri pomeriggio praticamente si è ripreso il lavoro. Non c'è stato nessun riconteggio, io non ho chiesto nessun riconteggio. Questa mattina credo che proprio adesso stiano annunciando il risultato definitivo e ci sarà la proclamazione del vincitore, che è Fabrizio Ferrandelli. Ah, io non ho chiesto nessun riconteggio e non contesto nessun risultato. Quindi lei comunque ce lo sta anticipando, cioè verrà proclamata tra poco. Sì, penso che proprio in questi momenti ci sia il risultato. Piuttosto c'è un'altra cosa, cioè che siccome sono state riscontrate alcune criticità, ci sono stati diversi ricorsi, sono state verificate comunque alcune criticità, il tavolo tecnico ricorre al Comitato dei Garanti. Le primarie di Palermo registrano l'aumento dell'affluenza di 30.000 votanti. Anna Marino ha intervistato Roberto Dalimonte, professore ordinario nella Facoltà di Scienze Politiche della Luis Guido Carli, dove insegna sistema politico italiano. È sicuramente un segno di forza, perché la partecipazione politica va sempre vista, o quasi sempre vista, positivamente. Sull'affluenza io credo che l'interesse per la competizione, il fatto che ci siano stati diversi candidati, il fatto che la competizione sia stata percepita come aperta, quindi una vera competizione con un risultato incerto, quindi non una scelta che dovesse legittimare un esito già scontato, questo ha sicuramente stimolato la partecipazione. Dal punto di vista della competizione è stato il calibro anche degli sfidanti? Sono giovani, ecco, questo mi ha colpito, cioè hanno fatto molto bene due giovani, addirittura ha vinto un giovane 31enne, e qui c'è un segnale, io colgo un segnale così come abbiamo visto a Cagliari, così come abbiamo visto a Genova, cioè un segnale chiaro di nuovo, cioè una domanda di nuovo, di novità, di ricambio, c'è bisogno di una classe dirigente nuova, è questo che la gente vuole. Il leader della Lega Umberto Bossi alza i toni contro il presidente del Consiglio Mario Monti e poi precisa: è lui che minaccia noi. In diretta Alessandra Schepisi, buongiorno. Sì, buongiorno, corregge il tiro, spiega che è solo un fraintendimento e se la prende con i giornalisti che travisano, ma ormai la polemica sulle sue dichiarazioni è divampata. Monti rischia la vita, il Nord lo farà fuori, aveva detto ieri da Piacenza il senatore, dando il via alla campagna elettorale per le amministrative in cui la Lega correrà da sola, ed è qui evidentemente la necessità di alzare i toni. Poi la precisazione, ha detto che Monti nella testa dei padani non è ben visto perché ci porta la povertà e la mafia, è lui che minaccia noi. Parole irresponsabile, ha commentato il ministro dell'interno Cancellieri, che ha ruoli pubblici non istighi all'eversione, e arriva anche la condanna dei partiti. Il leader dell'UDC Casini invita il senatore a prendersi un periodo di riposo, Bossi è incapace di intendere e di volere, tuona il PD, boccia, di linguaggio violento e intollerabile parla Nichi Vendola, del SEL inaccettabile per il presidente della Lombardia Formigoni, mentre Perfini è inutile commentare perché ciò che dice Bossi non è più nell'ordine dell'analisi politica. Ed è ormai tutto. Grazie ad Alessandra Schepisi. Ora un'altra notizia appena giunta in redazione. Il Tribunale ha nominato Massimo Gambini curatore patrimoniale dell'eredità di Lucio Dalla. Dovrà prendere in mano lo stato patrimoniale del cantautore verificando quello che c'è a tutela degli eredi. Poi i notai designati faranno una ricognizione dei beni visitando tutti i luoghi di proprietà. Il PIL nella Eurozona è calato dello 0,3% nel quarto trimestre del 2011, così come quello dell'intera UE27. La crescita rallenta all'1,4%. È il dato della seconda stima resa nota oggi da Eurostat, che conferma i dati pubblicati lo scorso 15 febbraio. Confermato anche il dato dell'Italia, meno 0,7%. Nel confronto su base annuale, ovvero rispetto al quarto trimestre del 2010, il prodotto interno lordo della UE17 risulta aumentato dello 0,7%, quello dell'Italia invece è calato dello 0,5%. Torna correre la cassa integrazione. A febbraio, secondo i dati diffusi dall'INPS, le aziende italiane hanno chiesto l'autorizzazione per 82 milioni di ore di CIG, con un aumento del 49,1% rispetto ai 55 milioni di gennaio, dato più basso dall'agosto 2009, e del 16,8% rispetto a febbraio 2011. Vola la cassa in deroga a più 134% su gennaio. Ed è ancora record sulla rete carburante italiana, che naviga ormai senza freni verso i 2 euro al litro per la benzina. Secondo Staffetta Quotidiana ha raggiunto un picco di 1,861 euro presso i distributori IP, con un rialzo di 4 centesimi. Una stangata da 3,5 miliardi di euro per le imprese. È l'ipotesi avanzata dal segretario della CGIA di Mestre, Giuseppe Bortolussi, riguardo al possibile aumento dell'IRAP. Sentiamo proprio Bortolussi. Se si aumentasse fino al massimo, avremmo un aggravio per le aziende private di circa 3 miliardi 585 milioni, che è potenziale. Ripeto, le regioni dove sarebbe più forte questo aumento sono ovviamente la Lombardia, che ha il 25% praticamente dell'economia italiana, abbiamo 1 miliardo 331 milioni, poi abbiamo il Veneto 473 milioni, Emilia Romagna 449, Toscana 321 e Piemonte 370. Questi sono gli aumenti. È potenziale il discorso, però, di questi tempi, con i problemi che hanno gli enti locali, le regioni in particolare, di far quadrare i bilanci, non è così difficile pensare che alcune di queste aumenteranno. Ed ora la nostra consueta rubrica sul paese sommerso. Il paese sommerso. Il paese sommerso. Storie di ordinaria evasione fiscale. Il fiume di capitali verso la Svizzera non accenna ad arrestarsi. L'anno scorso, secondo la Guardia di Finanza di Como, sono stati intercettati 66 milioni di euro, movimenti di contante che si sono intensificati nella seconda metà del 2011, rimanendo vivaci in questi primi mesi del 2012, come spiega il colonnello Alessandro Lucchini. Negli ultimi mesi del decorso 2011 abbiamo registrato una certa intensificazione dei risultati in uscita stato. Gli ultimi casi scoperti sono stati quelli di un operaio quarantenne di Solbiate, sorpreso con 1 milione di euro in auto al valico di Bizzarone, e di un settantenne pensionato che ha deciso di nascondere 245.000 euro tra giubbotto, giacca e pantaloni. Finanzieri e funzionari di Dogana l'hanno fermato al valico di Pontechiasso mentre era alla guida della sua Mercedes. Anche lui era diretto in Svizzera. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora un aggiornamento sui mercati finanziari con Deborah Rosciani. Buongiorno. Buongiorno, è una giornata davvero ricca di notizie, è comunque una giornata difficile per le borse europee, che sono ancora preoccupate per il nodo del debito greco, ma dalle ultime ore anche per le tensioni fra Iran e Israele, che hanno spinto all'insù il valore del greggio. Il WTI, il greggio di riferimento americano, è scambiato sui 107 dollari al barile. Il quadro vede Milano come peggior piazza d'Europa, il FTSE MIB perde il 2% con le vendite che sono ritornate prepotenti sul settore bancario. Parigi perde l'1,64, Francoforte meno 1,52, Londra in ribasso dell'1,14%, l'euro è a 1,31,38 sul dollaro. Sotto i riflettori oggi il mercato obbligazionario. Lo spread fra BTP e Bund stamattina si attestava sui 318 punti base, al di sotto anche oggi del differenziale calcolato sui bonus spagnoli, che è salito a 326 punti, quindi oggi titoli di Stato di Madrid ancora sotto pressione, almeno abbiamo passato questo testimone. Ma la novità è stata presentata questa mattina a Roma. Arriva sul mercato il 19 marzo il nuovo BTP Italia, un titolo di Stato a scadenza quadriennale a 4 anni, rivolto specificatamente al pubblico retail, con un taglio minimo da 1.000 euro e una cedola indicizzata all'inflazione italiana. Il titolo potrà essere sottoscritto dal 19 al 22 marzo, sia direttamente sul MOT, il segmento appositamente dedicato a questo settore di borsa italiana, sia in banca. Poco fa c'è stata la dichiarazione anche di Maria Cannata, responsabile del debito pubblico del Ministero dell'Economia, che ha detto che questo nuovo prodotto nasce proprio per l'esigenza di rivitalizzare la domanda dei piccoli risparmiatori italiani. Ben ritrovati da Adriana Fracchia. Anzitutto i titoli di questa edizione: Notav, napolitano a Torino, città blindata. Le mani della criminalità organizzata sui cantieri della TAV, denuncia Saviano.

risicata. Sì, sì, diciamo, noi quella è una vicenda dove secondo me il fatto di non avere una procura nazionale antiterrorismo come abbiamo la procura nazionale antimafia l'abbiamo pagato. Senta Presidente, io le chiedo questa cosa, secondo lei il professor Marco Biagi è stato ucciso veramente per la questione dell'articolo 18? Bah, direi di sì. In realtà loro puntavano contro il mondo del lavoro e anche D'Antona, no? Era, diciamo, il target uguale. Subito dopo l'omicidio D'Antona, girato in Italia per parlare di un nodo toscano delle vecchie e nuove Brigate Rosse. E il nodo toscano c'era. Cioè, io avevo visto questa costante, c'era questo aggancio fra Roma e Firenze. Per esempio, uno dei vari amanti della Lioci era stato uno di quelli che erano stati presi su un motorino che stavano per fare una rapina e che immediatamente si dichiararono prigionieri politici. Un aggiornamento sull'arresto di è stato indagato il presidente del Consiglio regionale della Lombardia, il leghista Davide Boni, che appunto abbiamo dato notizia che è stato indagato dalla Procura di Milano per corruzione e sono in corso perquisizioni della Guardia di Finanza. Boni è stato chiamato in causa dall'architetto Michele Ugliola, inquisito per le tangenti al comune di Cassano d'Adda nelle inchieste per corruzione. Ora invece parliamo del blitz sulla sanità campana, 13 gli arresti. Sono 13 i provvedimenti cautelari, di cui un arresto in carcere, 2 domiciliari, 3 divieti di dimora, 7 obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria e 42 decreti di perquisizioni domiciliari eseguiti dai NAS e della Guardia di Finanza in Campania, Toscana e Piemonte, emessi dalla Procura di Napoli nei confronti di personale medico e paramedico di varie strutture ospedaliere partenopee, tra cui l'ospedale Cardarelli, nonché di alcuni dipendenti della casa di cura napoletana privata Villa del Sole. Tra gli arrestati figura il primario di ortopedia dell'ospedale Cardarelli, Paolo Iannelli, condotto in carcere. Agli arresti domiciliari il fratello di quest'ultimo e l'amministratore della casa di cura Villa del Sole. Secondo l'accusa, gli indagati dirottavano verso la clinica privata pazienti dell'ospedale Cardarelli che attendevano di essere operati. Le indagini sono state coordinate dai PM Francesco Curcio ed Henry John Woodcock. Paolo Picone, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Napoli. I laureati italiani fanno sempre più fatica a trovare lavoro. Le cose vanno peggio per i giovani del Sud e per le ragazze. Lo dice il rapporto di Alma Laurea presentato stamani. Il direttore di Alma Laurea, Andrea Cammelli, al microfono di Maria Piera Ceci. Il tasso di occupazione dei laureati di primo livello ad un anno raggiunge sostanzialmente attorno al 66-67%. E questo elemento importante è una quota più elevata di quanto non capiti ai laureati dicospecialistici. Quindi siamo su valori elevati, però ancora, che tradiscono una situazione ancora particolarmente difficile. Ci sono delle lauree che ancora garantiscono un'occupazione? Ma guardi, il quadro di riferimento è un quadro, per la verità, che dico riguardo un po' tutte le facoltà, un po' tutti i corsi di laurea. È vero che le lauree in alcune facoltà in particolare, ma non in tutto il paese nella misura identica, penso alle lauree in ingegneria, alle lauree in alcune materie scientifiche, alle lauree in architettura, lauree triennali nelle professioni sanitarie in particolare, mostrano un tasso di occupazione, una quota di occupazione molto più elevata di quanto non capiti per le lauree cosiddette generaliste, che hanno bisogno di tempi più lunghi per migliorare il loro livello di occupazione. Esce oggi Wrecking Ball, il nuovo album di Bruce Springsteen, che segna l'attesissimo ritorno del rocker del New Jersey. Si tratta del 17° album dell'artista con 11 nuove canzoni, un disco in cui il boss lancia strali contro i banchieri responsabili dei disastri provocati dalla crisi economica. Sentiamo il commento sul nuovo lavoro di Bruce Springsteen da parte di un profondo conoscitore del boss, Ermanno Labianca. Ho la sensazione chiara che ci troviamo davanti a un disco importante, bello, molto classico ma al tempo stesso moderno, cioè è uno Springsteen che guarda a 360 gradi intorno alla sua musica. Ho letto un paio di critiche negative di americani che ritengono che il suo spostarsi, sia pure in maniera minima, si parla di secondi, sul terreno dell'hip hop, perché c'è un rap in una canzone bellissima che si chiama Rocky Ground, sia una esagerazione per un artista bianco americano, ma insomma io non credo che la cosa vada letta in questo modo. Springsteen è un artista che sa guardare oltre, per esempio l'hip hop è un certo modo di utilizzare il ritmo, era stato già praticato 15 anni fa con Streets of Philadelphia e tutti l'hanno sentito, insomma, maneggiare un ritmo diverso, più moderno. Springsteen è un artista che abbraccia tutta la cultura americana musicale è fatta di hip hop, è fatta di blues, è fatta di soul, è fatta di gospel e anche del rock, che un tempo era musica centrale, oggi lo è un po' meno. A maggior ragione Springsteen è un artista moderno, oggi che rinuncia un pochino a quella sua cifra rock che è sempre stata la sua mainstream, ma abbraccia i suoni non a caso della gente che è in sofferenza, i popoli in sofferenza. Lui pensa a New Orleans, quindi pensa a quello che è accaduto lì giù, pensa al dolore dei neri e il fatto che abbia inserito in questo disco una enorme quantità di voci nere e campionamenti anche che arrivano dal blues e dal gospel denota una sensibilità straordinaria, secondo me. Un disco bello, caldo, coerente, che utilizza tutti gli strumenti che lui aveva a disposizione, anche marginalmente il suo rock. Ed è tutto per questa edizione curata da Daniele Biacchessi. Un ringraziamento a regia Pietro Lacorte, un saluto, un augurio di buon pomeriggio da Adriana Fracchi. A GR24 torna alle 14. GR24, il sole 24 ore. Direttore Fabio Tamburini.